Ciao a tutti e tutte. Allora, questa mattina sono arrivate alle 9.35 più o meno, due camionette e più altre volanti della polizia. Sono entrati, hanno fatto irruzione e hanno comunque, no, ci hanno minacciato, cioè, due persone l'hanno strattonate e poi piano piano noi hanno un po' di resistenza, siamo riusciti a uscire dallo stabile. Una volta usciti siamo andati a riprendere le cose, dopodiché una compagna aveva preso il telefono per chiamare il lavoro e praticamente è stata minacciata e le hanno messo pure le mani al collo perché si stava riprendendo il cellulare. E continuando così abbiamo continuato a prendere le cose e hanno rotto tavolini di plastica, altro il mixer l'hanno rotto, hanno rotto dei vetri. Anche no, inutilmente, nel senso solamente per prestarci. E niente, poi vabbè, nel corso della mattinata stiamo dando l'appuntamento al bar tabaccaio che è vicino all'occupazione, e il tempo insomma di recuperare tutto, fare un volantini striscione e poi megafoniamo per il quartiere, perché comunque questa occupazione, anche no, se è durata 10 giorni, però ha creato una bella rottura, un bel movimento rispetto a questo quadrante, ha dato un Esatto, tra segnale l'altro forte. sì, quindi Tra l'altro, appunto un quadrante abbastanza particolare anche come densità di popolazione, no? Quindi. sì, nel senso che comunque è incastonato, diciamo, tra 3-4 quartieri popolari, di case popolari, ci sono accanto, no, tutte, c'è il raccordo, però andando un po' più avanti ci sono tutti i quartieri residenziali, quindi anche diversificato nel suo essere, però diciamo, quello che siamo riusciti a fare in questi 10 giorni è creare un ambiente, una riapertura di un ambiente dove c'è socialità differente, dove si crea appunto una cultura anche di aggregazione, di socialità che va diciamo, completamente differente da quella che ci viene proposta, e soprattutto in un quartiere in cui non c'è nulla, dove comunque i ragazzi si incontrano attorno a un motorino e non hanno posti appunto dove poter esprimersi, e appunto in quartieri come questo che sono totalmente sguarniti sia di qualsiasi tipo di servizio, ma proprio neanche viene preso in considerazione che ci abitano delle persone, che bisogna appunto risolvere delle questioni non solo dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma anche culturale, sociale, insomma, quello abbiamo provato a fare. La risposta è stata molto positiva anche delle associazioni e anche dei singoli ragazzi e ragazze che anche questa mattina e anche ieri sera, in realtà, che c'è stato un tentativo di sgombero, sono arrivati. Questa mattina pure li vediamo qua, stanno qua con noi e devo dire che per quanto no, cioè, lo sgombero è avvenuto, però noi insomma siamo ancora qui, vogliamo dirlo al quartiere, vogliamo continuare con altre iniziative. Non è, la fazenda non chiude qua, non bastano due camionette e tre volanti per chiudere questo percorso. Senti, allora, visto che voi vi accingete a fare così, a improvvisare un po' un corteo, diciamo che adesso è più importante che mai che forse che chi vuole dimostrarvi la solidarietà si avvicini a voi, no? Venga lì e partecipi con voi a questa sfilata nel quartiere, tanto per rimarcare appunto che non sarà questo a fermarvi. L'invito è di venire qua e noi appena insomma, riusciamo a finire le ultime cose, aspettiamo un po' di compagni e compagne e poi insomma, iniziamo a volantinare e megafonare nel quartiere.